anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Signori, siamo qui, sono le 7:19 minuti, siamo anche in diretta sulla nostra pagina radio24.it, sul nostro canale Facebook di Radio 24. Mi potete vedere, è un gran bello spettacolo ovviamente, mentre mancano 8 albe, 8 svegli all'alba per le vacanze. E allora siamo qui nella rassegna stampa di 24 mattino, siamo pronti caro Peter Pescapè, andiamo a vedere cosa ci offrono i giornali oggi. Io voglio la rassegna stampa di Alessandro Mila, la pretendo. Eccola qua. Martedì 18 luglio, non in agosto, però grazie caro ascoltatore. Martedì 18 luglio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 ore, pensioni, 66.000 domande per l'APE. Questo è il titolo di prima pagina. Sulle pensioni anche Il Giorno apre, perché pensione salva giovani è il titolo, con la proposta del governo, 650 euro con 20 anni di contributi più 30 euro al mese per ogni anno oltre i 20. I sindacati pronti ad aprire la discussione, la pensione salva giovani. Tra l'altro sui giovani, ma invece una pessima notizia, è il record dei giovani esclusi, è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Secondo un rapporto di Bruxelles abbiamo un record europeo di giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti NEET. Repubblica, Ius Soli, alta tensione nel governo, mentre per la stampa Berlusconi, il piano contro Lega e PD. Guarda a Franceschini per fermare Renzi e a Maroni, candidato premier, anti Salvini. Questa per la stampa è la strategia di Berlusconi. Il Messaggero, roghi e paura, la ferita di Roma, incendi dolosi nella pineta di Castelfusano e nelle campagne intorno all'ospedale Sant'Andrea. Per la Raggi, disastro ambientale, Canadair in ritardo. Il Fatto Quotidiano invece, Gentiloni inchiodato alla sedia, le nomine deve farle tutte lui. Immigrati nelle casette, terremotati senza tetto, è il titolo invece del giornale, mentre La Verità ha la faccia del fisco amico, Equitalia c'è ancora e fa la cresta sulle tasse. Questo è il titolo di prima pagina. Le altre aperture magari le vedremo, c'è molta cronaca giudiziaria anche oggi sui giornali, a cominciare dall'ergastolo. Inizio da qui anche perché la notizia è arrivata, come dire, a mezzanotte e mezza, quindi non tante ore fa. L'ergastolo confermato a Massimo Bossetti, 46 anni, per l'omicidio di Yara Gambirasio, era l'unico imputato, già l'ergastolo in primo grado. Ora la Corte d'Appello, dopo 15 ore di Camera di Consiglio, ha confermato la pena. Non c'è notizia su tutti i giornali, nel senso che alcuni hanno chiuso appunto e sono andati in stampa prima della notizia diffusa a mezzanotte e mezza. Leggo da Repubblica, pagina 15, ergastolo a Bossetti, ma la giuria si divide. 15 ore per confermare che Massimo Bossetti resterà in carcere a vita. 15 ore per ribadire che l'assassino di Yara Gambirasio è lui, l'uomo che ieri mattina alle 9, quando ha reso dichiarazioni spontanee davanti ai giudici, ha provato a allontanare la bestia dicendo: chi ha ucciso Yara è un animale, un maiale. Vi prego, rimediate al più grave errore giudiziario di questo secolo. Ma il rimedio auspicato da Bossetti non è arrivato e la Corte d'Assise d'Appello, dopo una Camera di Consiglio caratterizzata da una spaccatura della giuria, ha confermato l'ergastolo. Il verdetto è arrivato a mezzanotte e mezza. Questo processo, hanno detto i legali di Bossetti, resta per noi pieno di anomalie. Faremo ricorso in Cassazione. Ma perché c'è voluta una Camera di Consiglio così prolungata, scrive Repubblica? Vero che il presidente della Corte lo aveva un po' anticipato dicendo non abbiamo limiti, ma i tempi sono andati molto oltre le previsioni. Bossetti aveva detto: concedetemi la superperizia sul DNA, così posso dimostrare con certezza la mia estraneità ai fatti. Evidentemente qualche dubbio tra i giudici, 8, sono 2 togati e 6 popolari, era stato instillato sulla superperizia, necessaria per la difesa, inutile per il procuratore generale Marco Martani, cioè l'accusa, e il problema alla fine è che si è risolto con evidentemente una spaccatura, ma la condanna in maniera definitiva all'ergastolo dopo 15 ore di verdetto. Ora non rimane che la Cassazione. Vabbè, lasciamo questa vicenda di cronaca giudiziaria per arrivare a una vicenda di cronaca invece nera, se volete, perché è successo a Milano, alla stazione centrale. Ieri c'è stato un accoltellamento da parte di Saidu Diallo, originario della Guinea, 28 anni. Tra l'altro ricordate, di recente c'è stato anche l'accoltellamento, sempre nella stazione centrale, da parte di Ismail Tommaso Ben Youssef Hosni, italo-tunisino, 20 anni, per il quale si indaga anche per possibili legami con il terrorismo internazionale. È vero che anche Saidu Diallo ieri, nell'accoltellare un poliziotto durante un tentativo di fermo, ha detto poi «voglio morire per Allah» una volta che è stato fermato. In questo caso però, racconta Repubblica, c'è l'idea insomma che attribuirgli intenzioni jihadiste è un po' dubbioso. Sembra più una persona che ha dato in escandescenze, violenta, pericolosa, già con precedenti per lesioni, minacce, resistenza, con un decreto di espulsione firmato il 4 luglio dal questore di Sondrio e mai eseguito, aveva ricevuto l'ordine di espulsione. Certo, la situazione riporta ancora il tema sicurezza in primo piano. Alcuni giornali, come titolo, come Libero, titolano «Accoltella un agente, l'ho fatto per Allah», anche Il Giorno «muoio per Allah, shock a Milano». Su questo però io vorrei suggerirvi la lettura dell'editoriale di Francesco Merlo in prima pagina del quotidiano La Repubblica. Scrive Francesco Merlo: quando un maschio bianco e italiano stupra una donna, io non mi sento colpevole e a nessuno viene in mente di trattare come assassini di bambine tutti i muratori della Lombardia quando Bossetti, che faceva il muratore del Bergamasco, fu arrestato con l'accusa di aver rapito e ucciso una bambina. Perché invece gli immigrati sono tutti responsabili dei delitti commessi da un singolo immigrato? Perché nell'immigrazione non distinguiamo le persone, ma la percepiamo come una massa indistinta, senza nessuna differenza, direbbe San Paolo, tra vasi d'ira e vasi di misericordia, tra buoni e cattivi, tra innocenti e colpevoli. Ieri a Milano un poliziotto è stato accoltellato da un immigrato sbandato e violento, non dall'immigrazione. Sembra niente, ma il verme maligno che può far marcire questo paese spaventato è tutto qui. Nel sociologismo ideologico che semplifica e generalizza, che astrae e dunque persegue non il singolo delinquente, ma il colore della sua pelle, la sua nazionalità, la collettività da cui proviene, il Dio a cui si affida. È un'aberrazione dell'odio prendere un colpevole e con lui far colpevole una razza, un'etnia, una religione o quell'immensità di umanità che è l'immigrazione. Dunque, ieri la cronaca ci ha raccontato il delitto di un balordo di 28 anni, un'età come un'altra, che infatti non ci è arrivato addosso come un fastidio, non ha fatto suonare l'allarme. Nessuno se l'è presa con i nati negli anni 80. Non è stata ordinata una retata tra i ventottenni di Milano. Quel nome, invece, Saidu Mahmoud Diallo, ci è arrivato come un prurito da grattare via. E quando la riga dopo abbiamo letto che girava con un coltello, l'oscuro biasimo che ormai coviamo dentro ci ha confermato il pregiudizio, ha reso trionfante il conformismo estenuato dell'invasione barbarica a Milano, delle orde di extracomunitari che ci accoltellano alle spalle e dei fighetti di sinistra che li accolgono. Ma portateli a casa vostra, accomodateli in salotto. E cosa può avere in tasca un ghanese di nome Saidu se non un coltello? Nella paura collettiva il coltello e il nome Saidu sono come l'asola e il bottone, come l'usura e l'ebreo nel mercante di Venezia, come il mafioso e il siciliano nella Torino che vietava l'ingresso ai cani e ai meridionali. L'identikit, insomma, perfetto. Saidu non presenta punti deboli. La sua povera biografia vincente per i giornali che ogni giorno ingrandiscono e proiettano le ossessioni del paese e spesso spacciano l'astio per pensiero critico. Poi continua l'editoriale di Francesco Merlo in prima pagina di Repubblica. Vabbè, ognuno poi la pensi come vuole. Per dire, la persona che è stata arrestata ieri tra i piromani è italianissimo, però non è che tutti gli italiani sono piromani, ci mancherebbe. Eccolo qui, l'idraulico 22enne che innesca il rogo con i fazzolettini. È stato pizzicato, è stato preso, racconta il Corriere della Sera, pagina 19. È stato definito distaccato, così il presunto piromane arrestato ieri mentre cercava di appiccare l'ennesimo incendio a Castelfusano di Ostia. Sguardo fisso, quasi beffardo, non ha proferito parola nemmeno davanti alle domande incalzanti dei carabinieri di Ostia. Residente in zona, ma originario di Busto Arsizio, Varese. 22 anni, notato e segnalato dai vigili del fuoco e volontari impegnati a spegnere le fiamme nel parco della capitale. Quando i militari lo hanno accerchiato, lo hanno visto accovacciato a terra mentre appiccava il fuoco con un accendino ed alcuni fazzoletti di carta, pronti a diventare l'ennesimo innesco. È stato preso, portato in caserma, gli chiedevano il motivo del gesto, nessuna giustificazione, nessuna parola. L'uomo arrestato per tentato incendio boschivo e trasferito a Regina Coeli. Ecco, questa è la storia di uno dei piromani. Finalmente, almeno, si riesce a beccarne qualcuno. I danni che fanno sono terribili, ma almeno in questo caso è stato preso. Mentre, signori, che dire, torno alla questione di cronaca giudiziaria per raccontare l'articolo che mi fa pensare della giornata. È l'articolo da mani sul volante se siete alla guida, oppure appoggiate tutti gli oggetti contundenti, come sapete, se siete a colazione. Già il titolo che racconta questa storia scritta dal Giorno e che viene da San Giuliano in provincia di Milano, San Giuliano milanese, già il titolo dice tutto. Uccise la ex, libero di riprovarci, esce di cella e ne picchia un'altra. Carlo D'Elia racconta la storia di questo uomo che era già accusato di omicidio volontario e stalking. Sulle spalle ha già due condanne all'ergastolo, due condanne all'ergastolo, per aver ucciso la ex Antonia Bianco di 43 anni. È stato scarcerato per decorrenza dei termini nel 2015 in attesa della sentenza della Cassazione. E Carmine Buono, idraulico di San Giuliano milanese, ha picchiato un'altra donna, secondo le accuse, denunciato per presunti maltrattamenti alla compagna e al figlio. Un caso grave, lo dicono alla procura di Lodi. Grave, sì, molto grave, molto grave. Due ergastoli, infatti, per decorrenza dei termini, era fuori. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, probabilmente il miglior commentatore radiofonico al mondo. Caro ascoltatore, ti voglio bene, soprattutto per l'entusiasmo. Non è mio parente, ma insomma, va bene, grazie. Togli il probabilmente, sicuramente il miglior commentatore, giornalista, commentatore, insomma, è Fabio Caressa, insomma, che è un giornalista. Giornalista al mondo, migliore al mondo. Va bene, signori. Siamo qui, allora, lo Ius Soli ancora divide, ancora lo Ius Soli è il tema politico più sviluppato dai giornali. Intanto c'è sui giornali la reazione del Colle, cioè la reazione del Quirinale di Mattarella, Presidente della Repubblica. Secondo il Corriere della Sera, Marzio Breda, il sollievo del Colle sullo Ius Soli, tema divisivo, bene il rinvio. Mattarella per la cittadinanza, anche con percorsi di verifica dell'integrazione, ma questo scivolamento di cui il Quirinale ha preso atto con silenzioso sollievo, scrive il Corriere della Sera, considerando il tema politicamente divisivo in questa fase di acute tensioni che stanno lacerando anche la maggioranza. Insomma, un tema a rischio suicidio per l'inquilino di Palazzo Chigi, data l'aria che tira sulla questione migranti. E dunque Mattarella dice, visto che non si vuole andare a votare, non si vogliono creare incidenti, ecco che apprende con silenzioso sollievo quello che è successo. Tra l'altro anche Goffredo De Marchis, a pagina 3 di Repubblica, racconta un po' retroscena dei motivi che hanno spinto il premier Gentiloni a rinviare tutto. Paolo Gentiloni, si legge nell'articolo che è titolato «Nel contrordine di Gentiloni, pure un segnale a Forza Italia, meglio ostilità temperate». Paolo Gentiloni, scrive Goffredo De Marchis, ha deciso il rinvio dello Ius Solis seguendo tre tracce. Dopo aver parlato con Renzi ha capito che il segretario PD non aveva alcuna intenzione di finire nel solito frullatore di chi lo accusa di cercare a tutti i costi l'incidente. Dal lato sinistro era sicuro che MDP avrebbe protestato per la mancata fiducia, ma senza tirare troppo la corda. Ai bersaniani interessa di più la sopravvivenza dell'esecutivo. In ultimo, forse la ragione principale, il premier ha voluto evitare tensioni con Forza Italia. Silvio Berlusconi si è speso addirittura con un video contro la legge sulla cittadinanza. Palazzo Chigi ha recepito il messaggio. Per affrontare i prossimi scogli c'è bisogno di un atteggiamento responsabile del partito di opposizione, più lontano dal populismo. L'attenzione è rivolta soprattutto alla legge di bilancio. Significa che Gentiloni si prepara a votarla con Berlusconi? No, ma la manovra deve passare attraverso mille esami, l'Europa, le agenzie di rating, le commissioni parlamentari e infine l'Aula. Un'ostilità temperata non può che agevolarne il cammino. Ecco dunque che secondo Goffredo De Marchis su Repubblica Gentiloni guarda anche non banalmente all'inciuccio, ma un clima di tensione smussata con Forza Italia, considerato il partito meno populista e con cui intavolare anche un dialogo per la prossima manovra economica prevista a ottobre. In tutto questo, questa vicenda di Ius Solis ha generato e sta generando dei terremoti politici non indifferenti, Il ministro degli esteri Alfano rilascia un'intervista alla Stampa, Francesco Bei, un'intera pagina, pagina 3, dice «La collaborazione con il PD ormai si è conclusa. Continuiamo a sostenere lo stesso il governo, Gentiloni corretto, ma sullo Ius Solis la collaborazione col PD si è conclusa. Non facciamo parte della stessa coalizione del PD». Questo è il messaggio di Alfano, soprattutto il messaggio del ministro Costa, ex Forza Italia, ora esponente di AP, e cioè alfaniano, pronto a tornare forse da Berlusconi. Il messaggio è chiaro. Enrico Costa, intervistato da Carmelo Lo Papa su Repubblica, che già ieri anticipava il ministro Costa è pronto a dimettersi dal governo per tornare con Berlusconi. Ius Solis ha vinto il buonsenso, ora pronto a lasciare il governo, giusto il ponte con Berlusconi. Questo è il messaggio che dice Costa, questo nel titolo. L'intervista per la verità non è così chiaro, dice «non lascerò margini all'ambiguità. Il mio comportamento è stato sempre improntato a correttezza e trasparenza, lo sarà anche in questo caso». Fa capire che lascerà probabilmente il governo e si sposterà. E infatti Tommaso Labate sul Corriere della Sera racconta, pagina 11, tutti i vari spostamenti, da Costa a Formigoni, la tentazione Forza Italia, anche Eva Longo, verdiniana, che fece i selfie con Renzi, ora dice Silvio è rinato e forse è meglio rientrare. Insomma, preparatevi signori, ci sarà un grande via vai, transumanze no, per carità, non vogliamo trattarli, da bestie assolutamente, dai, in maniera figurata ovviamente, spostamenti di parlamentari qui e là o di politici qui e là, perché bisogna tutti riposizionarsi, visto che prima o poi in Italia si vota, prima o poi, ricordatevi, si vota. Tra l'altro sul tema immigrazione segnalo un'intervista al governatore della Lombardia Maroni, perché è interessante, intervistato da Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera a pagina 5. È interessante perché fu Maroni proprio quando era ministro dell'Interno a fare i permessi temporanei per i richiedenti asilo quando ci fu una situazione di emergenza sotto le primavere arabe e c'era un afflusso di persone in Italia. Lui rilasciò i permessi temporanei per cui queste persone potevano girare per l'Unione Europea. Proposta che adesso viene rilanciata dai radicali e che qualcuno dice il governo potrebbe riassumere. Maroni però dice ora è sbagliato. Ma come ora è sbagliato? L'idea del governo di concedere visti temporanei di 6 mesi rischia di essere un boomerang. Così inizia l'intervista di Maroni al Corriere. Ma come, non fu proprio lei 6 anni fa, da ministro dell'interno, a usare questi permessi per la prima volta? È vero. Era il 2011, eravamo di fronte all'emergenza vera con le primavere arabe. Ma io decisi, il governo dichiarò lo stato di emergenza, che giustificava una misura straordinaria come i permessi provvisori. Ma ora non sarebbe giusto. Perché? Perché il governo ora non vuole dichiarare lo stato di emergenza. E poi io non feci solo questo, strinsi anche una serie di accordi con i paesi nordafricani, in particolare la Tunisia, per fermare le partenze. Proprio perché avevamo bloccato gli arrivi, i nostri visti vennero accettati dall'Europa, risolvendo così la pressione. Oggi però mancano le condizioni per ragioni politiche, il governo non vuole dichiarare lo stato di emergenza, non ci sono accordi con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo e dunque di fronte alla previsione che gli sbarchi continuino a questi ritmi, i permessi temporanei rischiano di essere controproducenti. Dunque Maroni dice ora no. A proposito di Africa, ma questa c'entra davvero poco con l'immigrazione, Marco Grasso racconta che per la vecchia vicenda leghista dell'ex tesoriere della Lega Belsito, i famosi diamanti in Tanzania e i soldi in Africa, Belsito, sono sul Secolo XIX, pagina 7, è stato nuovamente condannato, una nuova condanna per l'ex tesoriere, 10 mesi per avere frodato il fisco. E a questo punto lo stillicidio di contestazioni penali potrebbe concretizzare il rischio per Belsito di finire in carcere. Lui, che tra l'altro ha anche 3 altri processi in piedi, racconta Marco Grasso sul Secolo XIX, pagina 7, rischia ora il carcere, l'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. A proposito di... no, dunque di carcere no, a proposito di diamanti neanche, soldi forse un po', ma neppure Africa. Vabbè, insomma, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Buongiorno, vedo che sei tornato alle care abitudini, fammi precedere da indagati, condannati, sì, malversatori in genere. Va bene. E quindi con gioia interpellerò istantaneamente il mio avvocato. Ottimo. Per mandarti l'abituale lettera monitoria. Caro, intanto che tu aspetti la lettera del mio avvocato, però ti vorrei consigliare alcune cose sul Sole 24 Ore, così bene, fior da fiore, in modo antologico. Già hai ricordato... Anche ontologico un po'. Sì, certo. Hai già ricordato il nostro titolo principale, dedicato appunto a queste domande per l'APE. L'APE, stiamo parlando dell'APE social, perché sì, quella volontaria, stiamo aspettando il decreto. Chissà, forse arriva a settembre, scriviamo oggi, vedremo... C'è tempo, perché affrettarsi, però poi c'è anche questa ipotesi tecnica di una pensione minima almeno 650 euro per i più giovani che hanno carriere troppo discontinue per poter puntare, poter avere una pensione decente a fine vita lavorativa. Ma ti voglio dire, succedono anche altre cose nel mondo, ad esempio sono in corso le trattative per Brexit, sì, come potrai apprendere, e qui sai che c'è un conticino che va da 40 a 100 miliardi, che sarebbe quello che appunto dovrebbe pagare la Gran Bretagna per l'uscita. Le trattative sono in corso proprio in questi giorni, ne riferiamo infatti a pagina 6 oggi, tutti i particolari nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Oh, e poi, visto che è estate, fa caldo, lo spritz payment, una versione che mi ha suggerito un collega peraltro di Radio 24, lo spritz payment, così magari ti viene più voglia di studiarlo. Stai studiando lo spritz payment? Come no. Sì, come voglio proprio vedere. Guarda che prima o poi vengo lì a controllare, ti interrogo direttamente. Lo split payment, perché oggi su Norme e Tributi torniamo sulla vicenda dello split payment e della fattura elettronica. So che tu resti, come dire, poco turbato da questa vicenda, ti assicuro che invece parecchi professionisti e aziende sono molto turbati. Oh, naturalmente oggi è martedì. Sì. E quindi il condominio. Oh, il condominio. Tra l'altro, sulla pagina di condominio oggi c'è scritto che se vuoi sostituire il portiere, sì. Non puoi usare il fratello, no. La moglie del metti che il portiere vada in ferie, per sì. dire, vada a Ibiza, per esempio. Adesso ho detto un nome a caso, un portiere va da Ibiza e gli subentra il fratello di nuovo, la moglie, e però allora attenzione, ci vuole un contratto, non si può sostituire così con leggerezza. Mi raccomando, il portiere, come sai, come hai potuto apprendere, è un ruolo delicato. È un ruolo importante, va bene. Naturalmente parliamo anche di voucher a proposito di prestazioni occasionali. Ricordati che da oggi sono a disposizione decine e decine di risposte sul sito www.ilsole24ore.com/, che sarebbe la sbarretta, nuovi voucher, è scritto Wooker, Alessandro, mi raccomando. Sì, Alino Milan, il server dell'informazione. Il server, va bene. Allora, le 7:48 minuti, anzi 49 minuti, la questione vitalizi tiene ancora banco, perché forse ricordate, a maggio PD e Movimento 5 Stelle avevano trovato un accordo sulla legge per rivedere i vitalizi, e cioè un nuovo sistema contributivo da applicare anche agli ex parlamentari e per deputati e senatori, richiedere almeno 5 anni di mandato e 65 anni di età per percepire la pensione, e si è tutto un po' bloccato, nel senso che un Senato che non riesce a approvare lo Ius Soli, figurarsi se riesce a approvare una legge sui vitalizi. E dunque il PD ha proposto di percorrere, se l'iter della legge ordinaria diventa troppo lungo, l'idea di delibere degli uffici di presidenza. Ieri Di Maio invece si è presentato, tra l'altro, con un elenco di migliaia di vitaliziati, dicendo è uno scandalo e lanciando quindi questa idea del velocizzare questa legge. Tra l'altro è un tema, come sapete, molto sensibile, un tema molto popolare, e ovviamente c'è il timore, scrive il Corriere della Sera, da parte di Renzi di farsi sfilare in qualche modo questo argomento buono in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Tra l'altro tutti i giornali segnalano anche, nell'elenco che ha fatto Di Maio, ha commesso anche una gaffa, perché a un certo punto, parlando dei vitaliziati, ha detto letteralmente c'è anche un certo Boneschi che si è fatto un giorno di Parlamento e prende 3.108 euro al mese. Peccato che Boneschi sia morto l'anno scorso. Ora i difensori di Di Maio, perché non si può mai ammettere un errore, dicono ma lo prendono gli eredi. Sì, allora andiamo a sentire letteralmente, ha detto c'è un certo Boneschi che prende 3.108 euro al mese. Più gaffa di così, non so, poi difendete come volete. Tra l'altro Boneschi era radicale, è stato, è vero, un giorno in Parlamento, poi come racconta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, era il difensore dei familiari di Giorgiana Masi, ragazza radicale uccisa durante gli scontri sul Ponte Garibaldi nel 77, e rimase in carica un solo giorno. I radicali facevano anche questo come sfida al sistema, non tanto per motivi di vitalizio ma per polemica, erano altri tempi parlamentari, e si dimise proprio dopo un solo giorno. Comunque il tema vitalizi rimane. Il Corriere della Sera intervista, qualche battuta, Cirino Pomicino, che dice sconvolge sapere che dopo 5 anni di amministrazione di una banca si esce con milioni in tasca e va tutto bene. Se invece un parlamentare dopo 20 anni di attività esce con 6 o 7 mila euro al mese, si grida lo scandalo. Abbiamo smarrito i valori. Così dice Cirino Pomicino, i valori. Che vuol dire? Ricordiamoci, sono 25 anni che la forza parlamentare è sotto il fuoco di fila da ogni parte. E anche Paolo Armaroli, costituzionalista, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, anche lui ha un vitalizio, dice quella contro i vitalizi è tutta una sceneggiata, visto che fanno la legge e poi la Corte Costituzionale boccerà e tutti daranno la colpa ai giudici della Corte Costituzionale. Va bene, sui vitalizi siamo alle solite. Invece l'Italia ha questo record europeo, una di quelle cose di cui non andare per nulla orgogliosi. Il Corriere della Sera dedica le pagine 2 e 3, quindi il tema principale, quindi anche il titolo di prima pagina. Abbiamo il record europeo di giovani che non lavorano e contemporaneamente non studiano, i cosiddetti need not in employment, education or training, cioè che non lavorano, non studiano e neanche, insomma, stanno facendo niente. L'Italia vanta in Europa questo primato di classifica, sono il 19,9% di giovani, 1 su 5 tra i 15-24 anni, in questa fascia 15-24 anni. Anche a pagina 3 del Sole 24 Ore c'è questo primato negativo, il record dei NEET, 15-24 anni, secondo l'OCSE, beh, non è davvero una bella cosa. Qualche notizia dall'estero, la prima è dalla Cina, dove hanno censurato Winnie the Pooh. Ebbene sì, è censurato nei social, non si può parlare, non si può mettere una foto, tutto viene considerato, sapete che è una censura strettissima nel corrispondente per esempio di Twitter sulla Cina, su si chiama Weibo, è l'equivalente della piattaforma Twitter, o WeChat, è la messaggistica con oltre 800 milioni di iscritti. Perché è tutto censurato? Perché non c'è più Winnie the Pooh? Perché il presidente Xi Jinping in alcune foto è stato paragonato proprio alla sagoma di Winnie the Pooh, il Corriere della Sera. Effettivamente alcune movenze lo ricordano, ecco, adesso verrò anch'io inseguito dalla censura cinese. Nel senso che in alcune foto di parate è stato paragonato a Winnie the Pooh, in alcune pose lo ricorda, i giornali oggi mettono la foto e le pose equivalenti di Winnie the Pooh. Grande affronto all'autorità cinese. Per questo motivo, probabilmente, come racconta Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, probabilmente perché il, come dire, il succo della censura è proprio questo, non spiegare neanche il motivo per cui una cosa viene censurata. Quindi in gran silenzio è scomparsa la possibilità di postare Winnie the Pooh sui social cinesi, probabilmente perché assomiglia in alcune sue pose al presidente Winnie the Pooh. Allora, vi segnalo un bell'articolo di Emanuela Audisio sul quotidiano La Repubblica sul rovescio di Federer. Chi è il rovescio di Federer? È un ritratto della donna che guida il suo impero economico e che guida tutto della sua vita. È la moglie, Miroslava Vavrinec, conosciuta come Mirka in Federer. Colei che decide per stessa ammissione di Federer quanto Federer dovrà giocare, perché, come, è un bel ritratto di Mirka Federer, lo trovate a pagina 21 di Repubblica. Si sono conosciuti a Sydney nel 2000 e la giovane tennista di cui lo svizzero si innamorò ne diventa moglie, manager, madre delle due coppie di gemelli. È appunto il rovescio di Federer, non in senso di colpo, ma nel senso di alter ego davvero presentissimo. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È un'intera pagina. Eccoci qua. Credo che torni, in qualche modo. Ogni tanto ritorno, le faccine. Sto facendo gli emoji, come si chiamano. Una pagina del giornale dedicato agli emoji geroglifici moderni, il vero linguaggio mondiale. Ma chi se ne frega?